buttato l'occhio su sullo strumento, anche io stavo guardando tutto, tutto nella norma, tutto, tutto gaffa. Non so se mi stai copiando, io sto andando. Valerio, buonasera. Valerio da Brindisi, buonasera. Qui Gianni dal nord Sardegna, Sassari per la precisione. Salutoni 73, buona serata anche a te, ben ascoltato, ben entrato qua sul 43. Cambio. Non ti ho detto il mio nome, il mio nome è attivo, Tino Muscolo, volevo un rapporto da te, se era possibile, Valerio. Allora, ho fatto una confusione, scusami, scusare, Tino? Sì, vabbè, io sono Tino e diciamo quello che ti ha fatto entrare poc'anzi, volevo un rapporto anche per me, poi ti rilancio l'amico Claudio, dai, che anche lui sta quasi per mollare, dai. Non c'è problema, dai, sappiamo come funziona. Volevo un rapporto mio, se mi date un rapporto a me anche, grazie. Valerio, ti ha chiesto un rapporto, Tino, un rapporto di segnale, Valerio. Gamba positivo, vai avanti Tino, vediamo un po' Tino. Vedi un po', dai Valerio, vedi un po' se ascolti, se come va, a parte la propaganda, Perfettamente, a te ancora Gianni. KK Valerio, sì, Ho capito, anche se non sono riuscito a copiarti al 100%, casa QSB, il segnale anche qua, casa propagazione, sale e scende. Quindi anche per me ti ricevo alto-basso, quindi confermo. Comunque, grazie mille, io qua ti saluto. 7-3 a te, alla terra di Brindisi, una stretta di mano, Valerio, buon fine settimana e tante cose belle. Ok, grazie del piccolo QSO e ti rilancio l'amico Claudio, avanti. Ciao la gara, va bene, dai, positivo a capo di Rogero. Ok, comunque già radio, ci facciamo sentire lo stesso, non c'è problema, adesso ci mettiamo un po' a posto meglio. Va bene. No, il mio Tino, come 747 non spinge molto, no, però disturbo, capito? Devo rimanere intorno a questa potenza, non tutta la radio, lo sai, perché non si può dare, se no sfasa l'eco e torna ai 4-5 watt, dai. Uso il picco di modulazione che è quasi 20, va bene così. Però 747, non è che dia tutti questi watt, dai. Una sessantina, era il mio 60, 70, non l'ho mai toccato, non so se sono reali, non lo so. Va bene, attenti ancora, dai, poi salutiamo Valerio. Valerio, questa è un'altra radietta, non so se mi ascolti con questa, rilancio il mic a Valerio prima che se ne vada la propagazione, ok? Vai Valerio. Va bene, dai. Fammi sapere se vi spostate così vi garantisco anch'io con l'altro, dai. Ehi, ti mando un messaggio su WhatsApp, dai. Così facciamo la tua. No, questo adesso la spengo, qua sta già abbastanza. Ha girato abbastanza e ho girato le balle anche Anna e ha dipiaciuto tutta la gira con questo elicottero. Ha saltato una cagina che a terra che fette il culare, mi ha detto. E allora? Buona carica, dai, a più tardi.